Fa l'originale, fa delle imprese da far strabiliare. Al mio paese c'è Marcello, col suo celebre cappello è sempre cortese, si dà un gran da far. E su il cappello, e giù il cappello, e giù il cappello, e sul cappello. Buonasera di qua, e buonanotte di là. E giù il cappello, e sul cappello, e sul cappello, e giù il cappello. Ciao barone di qua, buondì marchesa di là. Sardine e garzoni, son per lui la gran nobiltà. Finestre e lampioni, lui saluta con serietà. E su il cappello, e giù il cappello, e giù il cappello, e sul cappello. Buonasera di qua, e buonanotte di là. Cappello, giù il cappello, e su il cappello, buonasera di qua, e buonanotte di là. E giù il cappello, e su il cappello, e su il cappello, e giù il cappello, ciao barone di qua, buondì marchesa di là. Sardine e garzoni, son per lui la gran nobiltà. Finestre e lampioni, lui saluta con serietà. Buonasera, e su il cappello, e giù il cappello, e giù il cappello, e su il cappello, buonasera di qua, e buonanotte di là. Buonasera di qua e buonanotte di là. Buonasera di qua e buonanotte di là.